Il gastronauta di Davide Paolini. Bene, oggi parleremo di un tema che credo molto divertente, perché l'ho titolato così: dimmi cosa stai mangiando e ti dirò il nome da cui deriva il piatto o il prodotto. Bene, quindi facciamo questo gioco, lo voglio fare anche con i radioascoltatori. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Dietro a ogni piatto, molti, ci sono dei nomi un po' strani, anche dietro a molti prodotti. Allora andiamo a scoprire il perché. Ma io voglio coinvolgere i radioascoltatori in particolar modo e voglio chiedere, ad esempio, una serie di cose di cui noi non ne parleremo, ma voglio che siano i radioascoltatori a risolvere il rebus. Perché si chiama melanzane alla parmigiana? Perché si chiamano spaghetti alla carbonara? Bene, quindi rispondeteci, intervenite e discuteremo di questo, ma intanto noi cominciamo con una serie divertente di nomi sicuramente molto conosciuti. Andiamo a Prato al biscottificio Mattei, famosissimo appunto per i biscottini di Prato, da Francesco Pandolfini. Bene, a Prato si produce in particolar modo in questo biscottificio la torta mantovana. Cosa c'entra Mantova con Prato? Buongiorno a Francesco Pandolfini. Buongiorno signor Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perché si chiama mantovana, torta mantovana, e si produce a Prato? Si chiama mantovana perché è una ricetta che fu data al nostro fondatore Antonio Mattei da due suore di Mantova, che furono ospitate nel corso di un loro pellegrinaggio a Roma da Mantova, appunto si fermarono qua e furono ospitate da Antonio Mattei e dall'anno 1875. E questa ricetta è stata conservata da Antonio Mattei e la torta mantovana è diventata una nostra specialità da allora. Bene, bene, come vedo ci sono delle bellissime storie dietro. Ne è già arrivato un SMS che dice: perché si chiama pasta alla puttanesca? Bene, rilanciamo anche questo nome. Grazie Pandolfini, grazie da Prato, dal biscottificio Mattei. Ma visto che abbiamo parlato di Mantova, ora andiamo a Mantova, perché c'è un altro rebus. A Mantova c'è un dolce famosissimo che si chiama Elvezia. E allora io chiedo a Tano Martini, che spesso lo serve nel suo ristorante, perché si chiama Elvezia? Martini, buongiorno. Buongiorno, dottore. Si chiama Elvezia perché a fine Settecento, nel 1790, sono emigrati dalla Svizzera delle famiglie pasticcere. Queste famiglie pasticcere qui hanno avuto la più rinomata, la più conosciuta, era la famiglia Pusser o Pusher. Ed hanno creato questa famiglia qui, creato questa Elvezia, che non ha riscontro assolutamente in Svizzera. Ed è diventata appunto una specialità proprio tipica mantovana. Hanno tenuto la pasticceria nel centro di Mantova, in piazza Marconi, fino al 1930. Bene, certo che questo nome Pusher, insomma, è un po' imbarazzante, è vero? Così, diciamo, è vero, lei dice giustamente non ha niente a che fare con la Svizzera, così come, incredibile ma vero, l'insalata russa, che non ha niente a che fare con la Russia. Ma sentiamo un radioascoltatore, Stefano da Livorno. Buongiorno Stefano. Buongiorno signor Paolini. A noi a Livorno abbiamo una sorta di cibo di strada, diciamo, si chiama 5-5. È una sorta di pane francese, che però in Francia non viene fatto, forse perché qui a Livorno, con la grande mescolanza di persone che c'è stato, forse era un fornaio francese che lo faceva, e viene riempito con la torta di ceci. Bene, sì, diciamo, si chiamava 5-5 perché era 5 centesimi di pane e 5 centesimi di torta di ceci. C'è anche un forno molto particolare a Livorno che fa questa, dove sono stato. Ce n'è uno, uno storico, se non erro. Sì, ce n'è un paio. Che mi ha chiesto di titolare svizzeria, come dicono. La faccio abbastanza buona. Vabbè, forse magari. Ma magari sono veloci. Posso fare i nomi? Sì, non il mio, gli altri. Certo, certo, dica. Uno si chiama Cecco, e un altro Seghieri, sono tre, diciamo, e un altro da Gagarin. Bene, dica, sì. Ecco, io ero stato da Gagarin, che mi ricordo questo nome, appunto, certo. Che ricordava gli Sputnik, che ricordava. Esattamente. Grazie, grazie Stefano da Livorno. Sentiamo Nicola Marini. Nicola Marini è titolare della macelleria Marini di Ferrucia, provincia di Pistoia, e devo dire che è veramente stato colui che ha rilanciato la mortadella di Prato, che è un salume straordinario che poco a che fare con la mortadella, quella tradizionale di Bologna. Buongiorno Marini, mi racconta perché si chiama mortadella di Prato? Si chiama mortadella di Prato perché ha origini proprio da Prato, la città di Prato. Ecco, era una ricetta che era stata, diciamo, riscoperta nel dopoguerra. Era un, diciamo, un salume povero che risultava praticamente da, diciamo, dalla non riuscita del salame, ecco, un salame cotto che veniva cotto perché il salame stagionato non era come doveva essere. Poi negli anni ha cambiato la sua formula, ha cambiato... Beh, diciamo che anche c'è un segreto, che ci va l'alchermes dentro. L'alchermes, sì. Noi infatti nel disciplinare che abbiamo adesso, ottenendo l'IGP, che fa parte del Presidio Food, abbiamo nel disciplinare l'obbligo di usare l'alchermes della farmacia di Santa Maria Novella. Ecco, diciamo anche che è un salume che deriva da una tradizione medicea, se non erro. Sì, proprio, è un salume che è di origine dai medici, che è proprio, diciamo, come tipologia la presenza dell'alchemens, del macis, del garofano, di tutta una serie di spezie particolari che appunto erano le spezie usate anche dai tempi dei medici. C'è chi chiede perché si chiama pasta alla matriciana. Ebbene, credo che qui il discorso sia Amatrice, sia nata dai cuochi di Amatrice, che è un posto famosissimo nel Lazio, per, diciamo, che ha sfornato tantissimi cuochi, una scuola di cuocheri. Poi c'è un'altra cosa molto divertente, una battutaccia: a Pisa c'è la famosa torta coi bischeri, ma i bischeri sono gli ingredienti o i merletti che la ornano, dice il nostro radioascoltatore pisano. E poi ancora gli spaghetti alla bolognese. Beh sì, qui la bolognese si immaginava che c'era una specie di ragù, ma magari ci sono anche altre origini. Perché sarde beccafico? Perché ancora caciucco? Caciucco deriva da caciuc in arabo, quindi questo è un piatto di derivazione araba che è stato tradotto papale. Non è che ci siano delle cose particolari per cui spiegarlo. Bene, come dicevo, tantissime telefonate. Ora sentiamo Riccardo da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a lei, dottore. Mi dica. Buongiorno. Senta, volevo dire come mai il piatto tipico fiorentino, che ha la bistecca alla fiorentina, è il nome sbagliato, anche se è il più conosciuto. Perché il vero nome della bistecca alla fiorentina è carbonata, perché veniva cotto direttamente sul carbone senza... come dire, la griglia sotto. Questo perché la vera bistecca alla fiorentina deve venire dalla mucca chianina, che a metà dell'Ottocento era l'unica mucca, oltre le dimensioni, che lavorava e quindi aveva una carne molto ricca in connettivo, e per cuocerla bene era necessario appoggiarla direttamente sul carbone. Bene, lei fa ristoratore o il macellaio? Io faccio il medico. Ah, pazzesco, bellissimo questo. Quindi fa il veterinario o medico? Un medico... Il medico per gli umani. Insomma. Ah, per gli umani, quindi bene, questa bellissima cultura. La ringrazio Riccardo da Firenze per il suo contributo. Ora andiamo, diciamo che nella nomenclatura, nel linguaggio dei cibi, spesso torna la parola prete, cappello di prete, e poi aggiungerò che c'è anche un prodotto che si chiama Vescovo ed viene prodotto nella Bassa Parmense, ma poi vedremo anche questo. E allora io voglio parlarne di questo, appunto, perché sempre prete, perché i preti sono dei buon gustai, perché ad esempio strozza preti, tantissime cose, con Cecilia Robustelli, che è docente di linguistica all'Università di Modena. Buongiorno Cecilia. Buongiorno Davide, buongiorno a tutte e tutti. Ci racconti un po' dei preti? Dunque, sui preti c'è da dir tanto, in senso buono e gustoso ovviamente. E i preti sono noti insieme a monache, vescovi e frati come gran buon gustai, e a questa loro caratteristica si ripanano tutta una serie di termini, di proverbi. Io mi lancerei anche in un proverbio siciliano, se gli ascoltatori siciliani hanno la bontà di non criticarlo troppo. Quavilu pardinu in casa, avilu porco appiso. E tradotto vorrebbe dire: chi ha il prete in casa ha il porco appeso, cioè c'ha da mangiare, ha il benessere, sta bene. Ma i preti sono anche stati visti un po' come ghiottoni a volte da rimproverare. Ed ecco forse questo termine strozza preti, che è un termine molto curioso, perché il significato è trasparente: strozzare un prete. Però esiste in Italia anche la variante strangola preti, e non si tratta di due nomi che portano alla stessa ricetta, anzi, e qui forse gli ascoltatori potrebbero intervenire, si intende per strozza preti una serie di gnocchi, mentre per strangola preti una pasta come grosse fettuccine o quadrati di pasta tagliati a mano. Entrambi avrebbero questa funzione di strozzare, quindi uno strozza e l'altro strangola. Bene, rimani con noi perché poi continueremo con te, perché beh, ora ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, perché gli sms continuano ad arrivare. Ad esempio, mentre parlava Cecilia Robustelli, è arrivato un sms che dice: uova alla cardinale, perché si chiamano così? È un bel interrogativo. C'è chi ci dà un'interpretazione di insalata russa, perché nella vera c'è la barbapietola, tipica verdura dei paesi dell'est, nei quali si chiama insalata francese a causa della maionese. A me risulta che in Russia per un certo periodo si sia chiamata insalata di Oscar. Oscar era un cuoco di uno degli zar, quindi probabilmente questo. Poi ancora l'anduja, andugia, anzi come si dice calabrese, deriva da andouillette, quindi dal francese, deriva da questo salume francese. Bene, ora andiamo a Torre Pellice, Torino, andiamo da un grandissimo chef appunto di Torre Pellice, che è Walter Einhard. Buongiorno Walter. Buongiorno. Walter è sicuramente stato il rappresentante della cucina valdese, quindi una cucina molto particolare, e c'è un'espressione che definisce tutta la cucina valdese, che è anche il titolo di un libro appunto di Einhard: Supa Barbetta. Perché si chiama Supa Barbetta, Walter? Ma perché diciamo che i protestanti valdesi vengono ancora chiamati adesso Barbette, perché originariamente i pastori venivano, cioè andavano in giro per l'Europa, per l'Italia, a due a due, e venivano per portare l'Evangelo. E questo termine deriva dal fatto che nella famiglia di una volta patriarcale, il barba, che vuol dire zio, era quella persona che stava in casa, però non aveva patria potestà, per cui dava consigli, era diciamo il saggio di famiglia. E questa zuppa composta veniva fatta da dentro a dei recipienti di rame chiamato bassine, con una foglia di cavolo sotto, con la sola funzione di non far attaccare questa zuppa, e poi si facevano degli strati una volta di pane raffermo. Adesso diciamo che siamo un po' più sofistici, di grissini con della toma fresca, dei fiocchetti di burro e delle spezie, che questa tradizione delle spezie deriva dal fatto che sull'anno 1000 c'è stata questa invasione dei saraceni, e poi arriva di contrabbando dalla via del sale, e poi si fanno questi strati e poi si bagna il tutto con un brodo generalmente fatto con delle ossa di maiale salate, conservate sotto sale, e una gallina con tutti i gusti possibili, e poi si faceva cuocere sopra le braci, e generalmente non si rimesta mai. Si usano due bassine, si capovolge questa zuppa, ed era diciamo un onore per le mamme portare in tavola questa zuppa con o le fette di pane o i grissini interi e non spappolati. Bene, grazie a Walter Einhard, che ora ha un locale che si chiama La Crota d'Urs. Grazie Walter e a presto. Sentiamo Mirko da Catania, un radioascoltatore. Buongiorno Mirko. Buongiorno. Io vorrei dire questo, che vorrei dare un'altra chiave di lettura alla parola strozza preti. Prego. In effetti in Emilia Romagna l'origine di questa parola deriva dal fatto che la pasta strozza preti è una pasta composta da farina e acqua, e si origina dal fatto che la gente, il popolo, non poteva permettersi le uova, e quindi componeva la pasta con farina e acqua, a differenza invece dei preti, che tendevano le tagliatelle dalla finestra, notoriamente composta da uova, farina e acqua. E quindi da qui prende origine questo termine strozza prete, dal fatto che un pochino di invidia la determinava. Bene, Mirko, credo che ci sia anche un'altra origine, che è quella del colletto di un tempo portavano i preti, che era molto rigido, il colletto bianco, quindi quindi era vicino al collo e fosse derivato da quello. Questa è un'ulteriore interpretazione. Sentiamo Tina da Roma. Buongiorno Tina. Buongiorno. Senta, il couscous con la pietanza nordafricana, sì, fino a pochi anni fa, e nel Medio Oriente non si conosceva. Solo abbiamo diplomatici del Nord Africa parlavano del couscous, è una cosa molto volgare era per noi. Il couscous è una cosa volgare del Medio Oriente. Ecco, ma lei di che origine è? Di quale... Io sono nata in Iraq, di Baghdad. Beh, diciamo che guardi, che nella incredibile ma vero, ma nell'Artusi, quindi un libro che è stato scritto nel 1891, esiste una ricetta del couscousou che viene scoperta dall'Artusi a Livorno in una casa di ebrei. Il couscousou oggi è fatto anche in provincia di Agrigento dolce, quindi diciamo che se vogliamo andare sul couscous potremmo fare un'intera trasmissione a parlarne. Ma voglio tornare, grazie Tina, voglio tornare un secondo a Cecilia, perché nel frattempo sono arrivate moltissime sempre diciamo cose che riguardano i preti, riguardano i vescovi, riguardano i cardinali, quindi diciamo hai trovato qualche cos'altro che riguarda appunto il clero dal punto di vista dei nomi, Cecilia? Tu avevi già citato il boccone del prete, mi sembra, sì, cioè la parte posteriore del pollo, che sembra sia la più prelibata. In realtà non tutti concordano su questa interpretazione, ma così si dice, così è entrato nell'italiano popolare. Il cappello del prete, sì, e anche tutta una serie di nomi ricollegabili alla sfera religiosa, il cappuccino per esempio, tra l'altro, certo. Le Ave Marie, le dita d'apostolo, che sono delle paste, e anche tutta una serie di nomi legati ai santi, e qui il meridione la fa da padrone, a partire proprio da Catania. Piero da Genova, buongiorno Piero. Buongiorno dottor Paolini. Io volevo dare una testimonianza di un piatto invece genovese che è legato al nostro porto. Si chiama la mesciua, si tratta di è una zuppa, una minestra. Mesciua sostanzialmente è una mescolata, ed è una mescolata di legumi. L'origine di questo piatto la ricerca nel fatto che in passato le navi arrivavano in porto a Genova con nelle stive dei sacchi di legumi, i sacchi perdevano legumi, che una volta che le stive venivano svuotate i legumi venivano raccolti dai marinai, messe nelle tasche, poi portate a casa e si faceva una mescolata, una mesciua con quello che i legumi. Quindi mesciua vuol dire mescolare, è così? Mescolatura. Sì. Benissimo, grazie della sua testimonianza, Piero da Genova. Sentiamo Vittorio da Modena, buongiorno Vittorio. Buongiorno, dottor Paolini. Io le volevo porre una domanda riferita, cioè una conferma, per quello che avevo sentito dire dai miei nonni, no? Riferito ai tortellini, no? E tortellini, io sono di Modena, ho vissuto a Bologna, ho fatto le scuole, e la moglie è di Carpi. E i tortellini sono tre modi diversi di farli in questi tre posti, no? Però il nome Cappelletti, sì, da dove deriva? Lei cade a fagiolo, sono romagnolo, quindi cappelletto deriva da cappello di prete, perché quella forma del cappelletto è molto più vasta e viene chiuso in maniera quasi triangolare con quattro dita e ricorda appunto il cappello del prete, insomma, che si chiama in questa maniera. Ritorniamo sempre al discorso del prete, ma ci sono i tortellini, ci sono i cappelletti, ci sono i tortellacci, ci sono gli anolini, ognuno di questi ha una storia, quindi vede com'è importante sicuramente andare a verificare, perché si trova anche l'origine da dove è iniziato questo prodotto. Grazie Vittorio, sentiamo Tommaso da Bergamo. Buongiorno Tommaso. Buongiorno, la ringrazio per avermi chiamato e faccio i complimenti per la trasmissione. Io sono di Bergamo, ma frequento spesso Trieste ed Istria, e in quelle zone si mangia spesso gli scampi alla busera, che solo lì si trovano. Vorrei sapere perché si chiamano la busera. Perché io non so se lei li conosce. Sì, li conosco, è il condimento, ma ora chiediamo da dove deriva questa parola, che è una parola ovviamente veneta. Vediamo se Cecilia Robustelli ci può portare così all'origine. Me la ripeti per favore? Perché Busera, scampi alla busera. Scampi alla busera, sì. Ve lo dirò un'altra volta. Bene, benissimo. In compenso, intervengo sull'ascoltatore di Modena che parlava dei cappelletti. con una citazione dell'Artusi, sì, il quale dice: cuocete dunque i cappelletti nel suo brodo, come si usa in Romagna, ma guai a confonderli con anolini e tortellini. Quindi era ben chiara la distinzione. Eh sì, mi sembra giusto. Volevo così lanciare questa domanda. Chi intervenga qualcuno a spiegare perché questo nome, derivazione dal Veneto Busera, cosa significa in Veneto? Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Quindi nell'una o nell'altra maniera, signori, intervenite, signore veneti, intervenite, magari ristoratori veneti. Bene, io comunque devo fare ora una parentesi, devo ricordare che fino alla fine dei mondiali, quindi già anche da stasera, al Sole 24 Ore, nella sede prestigiosa di via Monterosa al 91, c'è un'iniziativa che si chiama Estate al Sole, dove verranno proiettati in schermo gigante tutte le partite appunto del mondiale e dove ci saranno anche dei momenti gastronomici. Questa sera per la partita appunto tra Stati Uniti e Inghilterra ci saranno gin tonic, vini californiani e whisky. Quindi e vai col mondiale, torniamo a noi e andiamo nelle Marche, andiamo da un grande esperto, andiamo da Ugo Bellesi, che è autore di un libro sui vinci sgrassi. Caro Bellesi, perché si chiamano vinci sgrassi? Si chiamano vinci sgrassi perché il cuoco che li ha creati nel 1779 li ha chiamati salsa per il princis grass. Princis grass da sempre veniva considerato un'abbreviazione di un termine che voleva dire piatto grasso per il principe o per il primogenito, per il quale il cuoco Antonio Nebbia, autore del cuoco maceratese, stava lavorando. A quel tempo i principini, cioè i nobili, erano un po' magri, smunti, avevano poca voglia di mangiare, quindi aveva creato questo piatto fatto a strati di lasagne e con un condimento in mezzo che nascondeva la sostanza per poterli nutrire, ecco, piatto grasso per il principe. Se non che recentemente abbiamo trovato una pubblicazione in Umbria risalente al 1761 in cui c'è descritto piatto d'uova in princis glasses. L'autore che ha trovato questo manoscritto del 1760, cioè Salvatore Pezzella, precisa che in princis glasses significa alla principe di Galles. Ho visto questa ricetta e vedo che è a base di farina, latte, tartufi, burro e parmigiano. La salsa per princis grass, quindi non glasses, ma princis grass di Nebbia, ha gli stessi ingredienti: tartufi, farina, latte, parmigiano e addirittura burro. Inoltre lui ha aggiunto dei pezzetti di prosciutto, però la salsa è identica. Probabilmente, siccome questa è del 1760, Antonio Nebbia ha fatto il suo libro nel 1779, ha ripreso questo condimento per le uova e ci ha condito questo tipo di lasagne. Se non che però, anziché mantenere princis glasses, che ovviamente avrebbe fatto capire che aveva copiato, ha cambiato glasses in grasses. Bene. Sì, quindi sicuramente i princis glassi potrebbero avere questa origine. Benissimo, grazie di questa tua dotta illustrazione. Ricordo il tuo libro appunto sui vincis grassi, cui hai scritto tutto su questo argomento. Ti ringrazio Ugo Bellesi, e Ugo Bellesi appunto con i vincis grassi. Ora andiamo a Casale Monferrato, dove c'è una specialità straordinaria che sono i crumiri, e andiamo da Anna Maria Portinaro, appunto dell'azienda che produce questi straordinari crumiri. Perché si chiamano crumiri? Buongiorno Anna. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno a tutti. Allora, siamo nel 1870. Domenico Rossi, inventore dei crumiri, pare si fosse ispirato, dicono le cronache del tempo, a un liquore chiamato crumiro, molto trendy in Piemonte in quell'epoca, che era stato importato da una compagnia di Ventura che combatteva in Monferrato, proveniente dalla Tunisia. È un biscotto molto semplice, fatto con farina, burro, uova fresche, vaniglia, senza alcuna aggiunta di conservanti, acqua, eccetera. Ha una cottura molto alta, perché non avendo conservanti deve essere ben cotto, perché contiene parecchio burro, come si deve alla pasta frolla, e la mia famiglia continua a farlo a questo modo. Comunque il nome pare venisse da questo liquore chiamato Crumiro. Bene, allora non sono i crumiri riferiti bene agli scioperi. Grazie Anna Maria Pontina. Grazie a lei dottore, grazie. Buona giornata. Mi piace che non sentiate il profumo. Bene, sentiamo Ulisse della provincia di Vicenza. Buongiorno Ulisse. Pronto? Buongiorno, buongiorno. Niente, voglio rispondere al discorso di che parlava prima degli scampi alla Bussola. Sì, grazie, grazie. Pronto? Sì, sì, stiamo... Ecco, voglio dire che Bussola... in Veneto e soprattutto in istriano vuol dire pentola, pentolata, è una pentola grande, da noi pigliata o teccia, quindi è una pentola grande dove vengono messi dentro e cotti così. Allo stesso modo si fanno anche i peocci alla bussola. Bene, grazie, grazie Ulisse, chiedevamo questo. Allora io lancio un altro quiz, perché si chiama babà? Questa è molto, ma molto interessante. Volevo dire anche un'altra cosa, che è veramente un sms divertente. A Guardiagrelli, in provincia di Chieti, c'è un dolce tipico detto zizze di Monaca, è una sorta di mega bignè fatto con tre punte. Io l'ho mangiato, anch'io mi sono chiesto perché tre punte si chiama in questa maniera. Bene, lanciamo un altro quiz, ma sentiamo Giulio dalla provincia di Como. Buongiorno Giulio. Buongiorno Davide, buongiorno. Senta, io ho un quesito, come me si chiama cazzuola o cazzera, detto dalle nostre parti, classico bottaggio di maiale, che peraltro seppi da un vecchio saggio milanese che nasce come piatto di recupero dalla tradizione. La prima veniva fatta in ottobre con la raccolta dei risi, con i pesci che venivano usati per mangiare le erbe nelle risaie, quindi carpe e chinche, e con le foglie esterne delle verde quarantine. Poi si passava alla cazzuola d'oca e infine a quella di maiale, che era il recupero di tutte le parti avanzate quando si facevano gli insaccati. Però l'origine del nome, ahimè, mi è sconosciuta. Cassola, quindi la cassola, insomma, come si dice. Io credo che sia la casseruola, esatto. Secondo me la casseruola dove viene cotto. Questa è una mia interpretazione. Sentiamo poi se c'è qualcuno che ne ha altre. Grazie, grazie. E devo dire che su Boccone di Preta ne sono arrivate tantissime di sms. Si vede che è entrato un po' nel linguaggio della gente, anche da un amico di Bologna, Giorgio, un grande mungostaio. Forse lui conosce bene cosa significa Boccone del Prete. Bene, sentiamo Diana da Roma. Buongiorno Diana. Buongiorno dottor Paolini, io sono di origine senese, vivo a Roma da 6 anni. A Roma mi è stata spiegata così da un signore, un romano doc, mi è stato detto che gli americani durante la seconda guerra mondiale, i soldati americani durante la seconda guerra mondiale mangiavano come sempre uova e bacon, sono stati presi dalla nostra pasta e hanno deciso di unire, hanno chiesto in trattorie tipiche di unire il loro uova e bacon con la nostra pasta e così sono nati gli spaghetti alla carbonara. Questo è stato spiegato a me da un signore che tra l'altro ha lavorato nella ristorazione tutta la vita. Bene, però c'è questo discorso carbonara da carbonari ancora, cioè non si riesce a capire. Bene, se ci sono altri che vogliono intervenire sull'argomento, ben volentieri. Ora andiamo a Firenze. Andiamo a Firenze perché la cucina fiorentina, la cucina toscana, ha tanti, così, tanti nomi che riportano a tante storie. Abbiamo con noi forse uno più bravo, molto bravo su questo, che ci può spiegare, Fabio Picchi. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te e a tutti voi cari. Perché si chiama francesina il lesso rifatto con le cipolle? Ma ci sono varie versioni, sai che fra Firenze e la Francia abbiamo avuto dei passaggi, donne importanti sono partite da Firenze per governare in Francia e viceversa, e per cui c'è chi rintraccia in una ricetta francese, il bœuf mirotton, qualcosa che per esempio può assomigliare alla nostra francesina. Io in questi casi preferisco giocare di fantasia e magari un fiorentino mangiando quel loro piatto che è buono ma è un po' primitivo ha preferito fare una elaborazione personalizzata. La nostra francesina ha le cipolle molto stufate, quasi arroventate su delle padelle, la colorazione marrone deve saltare fuori, no? Il rame deve andare via, l'oro deve andare via nelle cipolle, viene fuori il bronzo e che dà questa colorazione fasciante poi al bollito ricotto dentro, è un piatto di recupero la francesina. E quindi un po' anche il contrasto, sai che noi fiorentini abbiamo sempre voglia di scherzare, no? Questo piatto assolutamente grezzo, pesante, unto e bisunto, ecco, trovarvi di contrappunto un nome così leggero, la francesina. Insomma, per dirne una, la solita ironia fiorentina. Rimani con noi, allora andiamo da Franco Soldaini, andiamo in provincia di Como, andiamo sul lago di Como. Perché si chiamano missoltini, Franco? Caro gastronauta, ciao, buongiorno. Perché si chiamano missoltini? Perché, sai, la derivazione, l'etimo, l'aneddotica c'entra di mezzo un po' tutto. Ma intanto in dialetto li chiamiamo missoltini o missoltit. Se dovessimo guardare l'aneddotica diremmo che il solito pescatore ha voluto dedicare questo pesce straordinario, che poi è un agone essiccato, a una certa bellissima nobile inglese, Miss Oltin, ma questa è aneddotica. È aneddotica nella gastronomia, Dio mio, entriamo dentro e non usciamo più fuori. Molto più facile che si tratti invece della missolta, che è un recipiente, vecchio contenitore, storico, in legno di mastello, dove venivano appoggiati questi agoni essiccati alla breva e al sole del lago, in uno spago, e poi messi pian piano a raggiera sul fondo del mastello fino a coprirlo interamente, e poi veniva coperto questo mastello sopra una pietra finché comprimesse leggermente, tanto da far uscire l'ultimo grasso, la colatura che era rimasta di questo pesce straordinario. Il missoltino è veramente l'essenza del Como da gustare, l'essenza di tutto il lago, perché rappresenta una cosa straordinaria, in quanto nasce, e poi pensa alla storia, nasce agone, quindi in realtà, però all'inizio si chiama antesino, poi diventa agone quando ha 2 o 3 mesi di vita e finisce missoltino, quindi è l'unico pesce che cambia nome. Bene, grazie Franco Soldaini. Sentiamo Salvatore De Gennaro, il quale brevissimamente ci deve spiegare perché si chiama provolone del Monaco. Buongiorno a tutti. Il provolone del Monaco è un formaggio storico qui della Campania, si produce nella costiera sorrentina amalfitana ed trova origine già dal 1700. Il nome lo deve alla mitezza particolare di queste persone che portavano il prodotto dalla costiera sorrentina in barca sul porto di Napoli. A Napoli, come solito sappiamo tutti, c'è questo un po' la cosa di prendere un po' in giro la persona mite, quindi questa persona semplice, umile, da aspetto molto molto pacato, assumeva le sembianze di un monaco, anche per i vestiti che portava un vestito che era un saio, che portando a braccio sulla spalla le forme di provolone appena uscito dalla cantina, gli tendeva l'abito proprio con le sembianze del monaco, quindi a Napoli quando arrivava sul molo c'era questa passavoce che voleva arrivava, che lo chiamava il monaco, quindi era arrivato il provolone con il... Bene, grazie il Salvatore De Gennaro, vado di fretta purtroppo perché siamo agli ultimi minuti. Massimo da Torino, buongiorno Massimo. Buongiorno, io sono piemontese, ma mio suocero è abruzzese, sì, proprio di Guardia Grele. Sì. Allora, le sise delle monache, che letteralmente sarebbero le tette delle suore, sì, dato che nessuno si ritiene abbia mai visto come sono le tette delle suore, pensano che potrebbero anche essere tre. Bene. E quindi hanno chiamato i Tre Monti, che è il nome ufficiale delle sise, sì, delle monache, le sise delle monache. Grazie a Massimo. È arrivato anche un'altra definizione di busa. Busa è il ferro da calza con cui si facevano i maccheroni. Io chiedo a Fabio Picchi 30 secondi per spiegarmi la zuppa inglese. Beh, Leo Codacci mi raccontò una storia fantastica. Signore inglesi nella Firenze d'inizio secolo che lasciavano i biscotti non inzuppati nei loro teppo meridiani. Io ho una passione per la cucina degli avanzi, come tu sai, e le signore che gli davano una mano a rassettare poi le case non buttavano via questi biscotti. Cosa ci facciamo? È lì che nasce la zuppa inglese. Bene, grazie Fabio, sei sempre bravissimo. Francesco da Milano, radioascoltatore, 30 secondi. Sì, pronto? Sì, 30 secondi, mi dica. Volevo soltanto spiegarle che cos'erano le sarde in Beccafico. Velocissimo. Veloce. Si chiamano Beccafico perché è un uccello. Le sarde vengono allinguate nella pulitura, poi non mi chieda la ricetta perché... Non la voglio sapere l'origine del nome. L'origine del nome è perché è un uccello e quando lei lo presenta in tavola, quando la servono in tavola, è uguale all'uccello. cioè sembra proprio l'uccello con il suo becco e con le sue caratteristiche. Vengono poi cotte poco, per favore, perché sennò non vengono bene, e tra una sarda e l'altra viene messa una foglia di alloro. Bene, grazie a Francesco da Milano. Ci ha risolto anche questo problema, ne è arrivata un'altra. Si chiama carbonara per il pepe nero, che andrebbe messo in abbondanza ricordando il carbone. Antonio, grazie anche di questo ultimo intervento. Bene, grazie e buon weekend a tutti.